Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti di nuovo in diretta con Focus Economia e i temi di questa giornata economico finanziaria. Allora, devo rispondere subito a un ascoltatore. Ieri avevate previsto un'altra, no, nessuno ha previsto un'altra giornata negativa, ed è, se lei ricorda bene, da due settimane che assistiamo a giornate pesantemente negative e poi recuperi. Perché lo dico? Perché chi volesse trovare un senso di medio lungo termine in questi recuperi sbaglierebbe, non c'è un senso di medio lungo termine, nel senso che, così come abbiamo detto in questi giorni, che nulla era cambiato rispetto a novembre e dicembre quanto a sofferenza delle banche italiane, per esempio, dobbiamo ricordare che nulla è cambiato rispetto a ieri e all'altro ieri. Detto questo, è chiaro che c'è chi sta guadagnando, e anche parecchio, dalle vendite allo scoperto, cioè scommettendo che i titoli calino, e poi invece dagli acquisti veri e propri con i rialzi di oggi. Nel caso specifico, Piazza Affari guadagna il 4,64% ed è un buon rialzo non solo in termini assoluti ma anche in termini relativi, perché Parigi guadagna l'1,70% e Francoforte l'1,70%. E qui, visto che abbiamo detto in queste sedute che tutte le volte che le borse europee calavano pesantemente, Milano perdeva un punto e mezzo più delle altre borse, tipicamente Parigi e Francoforte, allora oggi con gaudio, diciamo così, notiamo che l'indice di Milano guadagna almeno due punti e mezzo in più rispetto alle altre borse. Perché questo? Perché da noi, come spesso abbiamo spiegato, i titoli bancari e quindi il settore bancario nel suo complesso pesa di più che su altre borse, quindi quando va male affossa di più la borsa e quando va bene la fa rialzare di più. Detto questo, poi nello specifico ci sono delle notizie, ci sono le rassicurazioni arrivate da Deutsche Bank. Infatti oggi Deutsche Bank è arrivata a guadagnare oltre il 9%. Rassicurazioni di che tipo? Beh, i vertici hanno, o meglio le agenzie finanziarie hanno ipotizzato che la banca possa andare a un cosiddetto buyback, ossia acquistare alcune delle obbligazioni che ha in circolo. Non si tratterebbe dei famosi coco bond, quelli più a rischio e quindi ad alto rendimento, ma più a rischio perché convertibili in capitale nel caso in cui la patrimonializzazione della banca scenda al di sotto dei livelli regolamentari. Si tratterebbe di obbligazioni senior, quindi quelle meno rischiose. Però il fatto che Deutsche Bank voglia riacquistare o abbia fatto traparare l'intenzione di riacquistare parte del suo debito è stato un elemento di rassicurazione per il mercato. Ieri le rassicurazioni arrivate dalla banca non avevano placato invece i timori, tant'è che il CDS, come abbiamo ricordato, il premio che si paga sul rischio Deutsche Bank erano saliti a 250 punti. Faccio notare, questo vale per Deutsche Bank ma vale anche per le banche di casa nostra. Oggi netto recupero, Intesa San Paolo guadagna il 13,90%, Unicredit più 11,34%. C'è chi dice, beh, per i conti sono usciti ieri e il titolo non aveva avuto nessun effetto, però è proprio l'andamento complessivo del mercato. Banco Popolare più 10,80%, è cambiato qualcosa rispetto a ieri e l'altro ieri? No. Unipol più 9,90, Poste più 9,60, ragionamento analogo, Pop Milano più 9,60, Mediolanum più 9,40, Anima più 8%, Mediobanca più 7,70, Exor più 7,60, Ubibanca più 7,5, Buzzi Unicem più 7,20, Pop Emilia Romagna più 6,80, CNH Industrial più 6,80, il 6,20 lo guadagna il Monte dei Paschi, il 6,12 Fiat Chrysler, il 6% Azimuth. Sono rialzi fortissimi su titoli che molto avevano perso, e faccio notare che nonostante questi rialzi ancora il settore bancario è sotto di un 34%, 33-34% rispetto a inizio anno, che è tantissimo, vuol dire aver perso la capitalizzazione, un terzo di capitalizzazione di borsa, e che nonostante questo recupero, ecco perché non bisogna né festeggiare, per quanto uno possa apprezzare il rimbalzo di oggi, faccio notare che nonostante il recupero di oggi, se la borsa è a 16.000, è tornato l'indice FTSE MIB a 16.696 punti, siamo ancora però ai livelli del 2013, che poi sia gennaio, maggio, aprile, cambia poco, ci siamo tornati indietro. Il livello di oggi è un livello che la borsa aveva anche per esempio il 7 giugno del 2013, siamo tornati e poi ce l'ha avuto a luglio del 2013, insomma all'estate del 2013. Questo la dice lunga su quanto la borsa si è mangiata in questo inizio anno. Ripeto, senza voler sminuire il rimbalzo di oggi, non so nemmeno, come scrive qualcuno, se sia il cosiddetto rimbalzo del gatto morto, come dicono gli americani, quando, usando l'esempio che se tu lanci un gatto dal grattacielo, quando mi guarda sorpresa il tecnico di regia, quando questo cade rimbalza anche se è morto, e quindi un rimbalzo fittizio, non lo so, perché non sappiamo se il gatto sia morto oppure no. Ripeto, guardate però sempre, sia quando la borsa crolla che quando la borsa recupera come oggi, l'addato di medio termine, e l'indice a 16.700 punti è un indice ancora basso. I titoli bancari nello specifico hanno perso almeno un terzo del loro valore da inizio anno, e visto che parlavamo di Deutsche Bank, anche Deutsche Bank, nonostante il recupero di oggi, ha perso oltre il 40% del suo valore in un anno, non da inizio anno, ma in un anno. Questo la dice lunga sulla pressione che c'è su questi titoli. E di questo parleremo. C'è anche un altro elemento che ha contribuito sui mercati, ed è la dichiarazione di Janet Yellen, del numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana. Ora qua potremmo fare un'intera puntata e discutere se la Fed abbia fatto bene o male, invece, come dicono altri osservatori, a rialzare i tassi a dicembre in maniera un po' improvvida, visto che adesso è preoccupata per le prospettive di crescita più debole dell'economia a livello mondiale, se questo non abbia dato un segnale negativo agli operatori, e se adesso frenare tutto non possa essere una pezza peggiore del buco, un rimedio peggiore del male. Questo, diciamo, lo lasciamo alle colonne, ai fondi e agli editorialisti. Quello che è certo è che oggi Janet Yellen ha detto che la Fed vede rischi sulla ripresa economica e sta valutando un possibile rialzo dei tassi di interesse. Quindi già era molto molto accomodante, con piccoli rialzi iperannunciati nel corso, sarebbe dovuta essere molto accomodante con piccoli rialzi nel corso del 2016. Adesso sta pure pensando di ritardare proprio il rialzo dei tassi di interesse americani, e anche di questo parleremo. Poi parleremo dell'ILVA e soprattutto, per quello che riguarda casa nostra, del Consiglio dei Ministri delle 21. Perché? Perché è un Consiglio dei Ministri fondamentale per quello che riguarda i temi di cui ci occupiamo. Deve approvare il decreto sulle banche dopo l'accordo con Bruxelles sulle bad bank, così chiamiamole in questo modo, che prevede tra l'altro via libera al sistema, appunto, di smaltimento dei crediti deteriorati, delle sofferenze bancarie, quello concordato con Bruxelles, e anche le misure per velocizzare il recupero dei crediti, quindi il diritto civile è una corsia preferenziale, perché tu questi crediti, tu puoi avere anche le garanzie, l'abbiamo detto più volte, di carattere immobiliare molto spesso sui crediti che hai concesso, ma se tu non riesci a recuperare queste garanzie in un tempo utile, è chiaro che sono garanzie che però tu non riesci a mettere a bilancio. E poi anche la riforma delle BCC. Ricorderemo anche che cosa prevede l'accordo con Bruxelles. 349-238-6666 per i vostri SMS e per la pagina di e per WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Come vedete, lo dico a chi scrive, il mio tono di voce è ininfluente rispetto all'andamento dei mercati, magari fosse influente. Le altre notizie in breve. Allora, sì, qualcuno cita addirittura Amleto, c'è del metodo nella sua follia, sì. Però scusatemi se da Shakespeare passo a Vasco Rossi, è inutile cercare un senso per una storia che un senso non ce l'ha, nel senso che quello a cui assistiamo oggi è chiaramente sono gli acquisti e i guadagni di chi magari ha venduto a ribasso. Consiglio vivamente a tutti gli ascoltatori che non siano trader di professione di stare distanti da questo tipo di operazioni, perché tipicamente uno compra quando ormai è sui massimi, poi quando vende ha difficoltà a vendere, insomma lasciatelo fare agli speculatori di professione. Detto questo, noi ragioniamo non della singola giornata ma dei livelli, e ripeto, hanno ragione gli ascoltatori, insomma i 16.000 punti sono 16.600 punti sono un livello di luglio-agosto 2013, ecco, quindi questo è il punto in cui siamo ritornati. Andiamo avanti con l'altra notizia in breve, però perché da questo punto di vista il petrolio oggi è cresciuto ma era caduto, per cui siamo a $28.50 al barile. Ancora, la Russia ha deciso di bloccare le importazioni di mais e di soia dagli Stati Uniti a partire dal 15 febbraio, sostenendo che non rispettano gli standard fitosanitari richiesti dalle autorità di Mosca. In realtà sappiamo che dietro questo spesso si celano le reazioni all'embargo statunitense e europeo nei confronti della Russia. Di America parleremo tra un attimo, gli Stati Uniti. Invece oggi la Germania ha collocato quasi 4 miliardi di titoli a medio termine, si chiamano Schatz, la scadenza è il 2018, il rendimento è negativo dello 0,5%, quindi si prestano i soldi alla Germania accettando di averne meno anche a livello nominale quando saranno a scadenza nel 2018. Devo dire che anche il Tesoro italiano oggi ha collocato 6 miliardi e mezzo di BOT a febbraio 2017, quindi BOT a un anno a rendimento negativo, che per noi, oltre che per la Germania, è un'ottima notizia. Il nostro rendimento negativo più marginale rispetto a quello tedesco, ma insomma meno 0,032%. C'è la domanda per 10 miliardi. E questo dovrebbe mettere a riparo qualunque dubbio e speculazione sul fatto se ci sono dei rischi visti nel debito italiano. No, se la domanda è così alta e accetti un rendimento negativo a un anno, insomma tutti questi rischi sul debito italiano evidentemente non vi sono. Lo spread è tornato sotto i 140 punti, intorno ai 137 punti, ma non mi sembra grande elemento di preoccupazione in questo momento. Deutsche Bank, confermo che è arrivata a guadagnare oggi anche più del 10%. Qualcuno mi chiede: ma considerando che oggi non è successo niente di eclatante, non temete che domani gli speculatori ricominceranno a shortare, che vuol dire a vendere? Certo, è proprio questo il ragionamento, è proprio così. Finché qualcuno non chiarisce o non vediamo un'inversione di tendenza, questa è una presa di beneficio, questi sono guadagni andando a comprare a prezzi bassi per poi rivendere. Poi domani magari avremo altre dichiarazioni, un chiarimento delle iniziative importanti e, come dicono quelli che hanno studiato, gli operatori si posizioneranno lunghi, cioè andranno a comprare in senso stabile, non a speculare sulla variazione come stanno facendo in questi giorni. Ma finché non c'è qualcosa di nuovo, è ovvio che domani potremmo avere una giornata di segno radicalmente opposto. Dunque, qualcuno mi fa notare che nell'estate 2012 eravamo a 13.000 punti, infatti io ho fatto un riferimento sull'estate del 2013 in cui eravamo a 16.000 punti, però diciamo andiamo con calma. Per quello che riguarda le notizie di carattere economico di oggi, al di là del collocamento dei titoli di Stato, per quello che ha a che fare con i dati di economia reale, oggi c'è una produzione industriale in Francia che cala rispetto a dicembre, rispetto a novembre, meno 1,6%, i dati sono peggiori delle stime e porta il calo annuale della produzione industriale allo 0,7%. L'Italia com'è andata? Allora, la produzione industriale italiana nel 2015 è cresciuta ai livelli massimi da 4 anni, fermo restando che siamo ancora sotto di un 20% circa dal 2007. E a livello statistico è stato l'anno migliore ed è il primo segno da 4 anni ed è infatti il primo segno positivo dal 2011, trainata soprattutto dalla produzione auto, più 42,5%. Restiamo ancora comunque, il livello dell'indice anche nella produzione industriale del settore autoveicoli resta sotto il livello del 2007. Il dato non buono riguarda dicembre, che ha fatto meno 0,7% su novembre e meno, ma uno dice vabbè, il congiunturale conta poco su dicembre, però ha fatto meno 1% anche su dicembre 2014, e il tendenziale in questo caso invece è più importante. Il timore che si possa essere entrati frenando come produzione industriale nel 2016 e vi possa essere una produzione industriale debole nel mese di gennaio. Comunque su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, quelli trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Salvatore Padula. La buona notizia è che nel 2015 la produzione industriale è tornata in terreno positivo dopo 4 anni di segni meno. Il dato dei 12 mesi che vanno da gennaio a dicembre, che è stato comunicato oggi dall'Istat, fa segnare un aumento dell'indice dell'1% rispetto al 2014. Come accennato, si tratta del primo rialzo del 2011, quando l'indice della produzione industriale, che ricordiamolo, misura l'insieme delle attività di trasformazione industriale in beni di consumo, era salito dell'1,2%. Per quanto riguarda i settori di attività, anche i dati di oggi confermano che il maggior traino alla produzione è arrivato dall'auto, che nei 12 mesi ha fatto segnare una crescita vicina al 10%. La notizia meno buona però è che i dati di oggi confermano le difficoltà che si sono già intraviste negli ultimi mesi dell'anno. Nel solo mese di dicembre l'Istat ha registrato un arretramento dell'indice pari allo 0,7% rispetto al mese prima, quindi a novembre. Insomma, qualche ulteriore elemento di incertezza che tende in qualche modo a segnalare che l'attività manifatturiera, che è pure in miglioramento, resta debole. Una buona notizia però arriva dall'indagine rapida del Centro Studi Confindustria. A gennaio le cose sembrerebbero andare meglio, con l'attività industriale che cresce dello 0,6% sul dato di dicembre, con attese che sono incoraggianti per i prossimi mesi, grazie alla spinta che arriva dal mercato interno, sostenuto dalla crescita dei consumi e dalla fiducia delle famiglie. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Proprio a conforto e a chiosa dell'intervento di Salvatore Padula sui 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, adesso è uscito il dato ufficiale del Centro Studi Confindustria sulla produzione industriale di gennaio, più 0,9% su dicembre e più 0,3% come variazione acquisita. Quindi, dice il Centro Studi Confindustria, pur in un contesto di minor ottimismo tra le imprese, gli indicatori qualitativi anticipatori per il manifatturiero puntano a una dinamica positiva della produzione, cioè c'è un rallentamento anche nella produzione industriale, ma un rallentamento che, da quello che stima il Centro Studi Confindustria, dovrebbe essere comunque col segno più. Qualcuno mi chiede se la borsa è in mano agli speculatori. Beh, in alcuni casi sì, nel senso, se la guardi giorno per giorno, certo. Se la guardi nel medio termine, no. Ci sono anche i fondi pensione che investono con logiche di medio e lungo termine. e altri investitori, però se lei si riferisce al giorno per giorno, alle variazioni di oggi, Milano sta guadagnando quasi il 5%, adesso sì, è speculazione totale. Oh, mentre, visto che parlavamo di produzione industriale, parliamo adesso di economia italiana, è arrivata la conferma oggi che il produttore giapponese di birra Asahi, mi ha offerto 400 miliardi di yen, sono circa 3 miliardi di, di euro, per comprare il marchio italiano Peroni, che appartiene al gruppo Sub Miller. Su tutt'altro fronte, e quindi mi riferisco all'Ilva, questa sera si chiuderà la prima fase del bando europeo, perché deve essere europeo, per la cessione ai privati dell'Ilva. Scade alle 18 il termine per presentare manifestazioni di interesse. Abbiamo già coperto quella del gruppo Marcegaglia, ieri c'è stata la Cassa Depositi e Prestiti, ma vorrei fare il punto con Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, in collegamento con noi da Taranto. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano, buonasera gli ascoltatori. Allora, visto che manca mezz'ora, adesso perché... per carità può arrivare anche qualcuno in zona Cesarini, le manifestazioni sono, intanto chiariamo che non sono alternative, come mi scrivo sulla birra non la sai, va bene, le manifestazioni non sono alternative, cioè possono poi diventare una cordata. Certo, e, diciamo, però facciamo anche l'elenco di quali siano arrivate, grazie. Diciamo che al momento quelle note sono appunto di Marcegaglia, come dicevi tu, di Cassa Depositi e Prestiti. Fra mezz'ora si chiudono i 30 giorni che erano partiti il 10 gennaio scorso, quindi fra mezz'ora o poco più in serata sapremo chi è al tavolo in questa prima fase della cessione dell'Ilva. Però ecco, chi è adesso è al tavolo non significa che questo crea dei giochi chiusi, perché una variazione, un'integrazione anzi fatta dai commissari al bando della cessione dell'azienda, una integrazione fatta il 18 gennaio, prevede che possano presentare manifestazioni di interesse anche soggetti a nome e per conto di cordate che si devono costituire e alle quali possono aggregarsi in futuro anche altri soggetti. Quindi non è da escludere che chi si presenta oggi al tavolo, chi deposita la formale manifestazione di interesse, un domani, quando poi la trattativa entrerà nel merito, nelle fasi come dire più stringenti e più vincolanti, possa dire di rappresentare una cordata e fare i nomi anche degli altri soggetti che in questo momento non sono noti. Quindi è soltanto una primissima fase che si chiude questa sera, che è comunque utile e interessante per capire a chi davvero interessa l'Ilva. Diciamo che questa procedura di vendita è prevista non solo dal bando lanciato dai commissari, ma anche da una legge che il Parlamento ha approvato nei giorni scorsi e che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio. Quindi Cassa Depositi e Prestiti, anche se il numero uno Fabio Gallia ha chiarito che loro vogliono entrare come quota di minoranza, non vogliono essere i leader della cordata. Certo. Poi il gruppo Marcegaglia, manifestato interesse, si è fatto anche il nome del gruppo Arvedi, colosso siderurgico cremonese, la società Trasteel che ha sede in Svizzera e anche interessi di alcune compagnie asiatiche, Posco o il gruppo cinese Hebei. Però oggi, Domenico, i lavoratori dell'Ilva, sia degli stabilimenti di Taranto che di Novi Ligure, che di Racconigi, che di Marghera, hanno scioperato dalle 9 alle 13 e poi sciopereranno di nuovo dalle 19 alle 23. Ha preso parte ieri alla manifestazione anche, ha preso parte oggi alla manifestazione anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Qual è il tema? Perché di Genova, di Conegliano ci siamo occupati, ma in generale... Il tema che viene da Taranto è quella che ci sia subito chiarezza e certezza sulla cessione dell'Ilva. C'è un filo comune che lega le posizioni che ha espresso oggi il governatore Emiliano, il presidente di Confindustria Taranto Cesario, i sindacati, i sindaci che erano presenti nel corteo di questa mattina, e che il bando di cessione dell'azienda a loro avviso lascia troppe zone d'ombra, non dice chiaramente che cosa sarà del piano industriale che presenterà chi acquisirà la gestione dell'azienda, non dice nulla a proposito del piano ambientale, le cui scadenze sono state anche prorogate a giugno del 2017. Secondo appunto le realtà locali, queste sono delle zone d'ombra che vanno subito chiarite, perché il futuro dell'Ilva è troppo importante, ha detto Emiliano oggi prima di salire all'incontro in prefettura, perché anche le istituzioni locali, perché anche le città dove hanno sede i siti Ilva non siano coinvolte in questo discorso. Allora, vedo moltissimi messaggi, cercherò di rispondere. Per quello che riguarda le offerte, ripeto, lo spiego agli ascoltatori, è solo la prima fase, ci possono essere altri ingressi in cordata e altre soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse che si uniscono. Vedo anche molti messaggi su Saipem, ho dimenticato di ricordare che oggi scusatemi, Saipem sarà uno dei temi di approfondimento durante i mercati finanziari, perché è un caso nel caso. Grazie a Domenico Pagnotti, meteo. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. minuti, arriveremo alla Saipem, lo dico agli ascoltatori preoccupatissimi, è vero, il titolo ha perso il 90% del capitale, oltre il 90% del capitale da quando quotava 7 euro, c'è stato un aumento di capitale molto dilutivo, l'effetto negativo ulteriore del prezzo del petrolio, e quindi insomma ci sono tanti, e il calo dei listini complessivamente dato. È ovvio che chi l'ha avuta a 6 euro, 5 euro, 7 euro, ma anche 4 euro, quando te la vedi in borsa a questi livelli, a 36 centesimi, non è che qualcuno chiede l'intervento della Consob, delle autorità di vigilanza. Diciamo che per ora ne sta pagando le conseguenze anche la Cassa Depositi e Prestiti, che si è presa una quota della Saipem dall'ENI. Per cui, però, andiamo con ordine. Un elemento certo che è intervenuto sui mercati, al di là delle dichiarazioni, o meglio delle indiscrezioni di agenzia sul fatto che la Deutsche Bank starebbe per riacquistare parte delle sue obbligazioni di migliore qualità sul mercato, il cosiddetto buyback sulle obbligazioni senior, l'ho avuto Janet Yellen oggi, la numero uno della Federal Reserve, ha detto in maniera molto esplicita che, visto che ci sono rischi sul fronte delle prospettive economiche, la Fed sta pensando, è possibile, ha detto, un ritardo nel rialzo dei tassi di interesse. L'inflazione ha aggiunto le strade basse nel medio termine, ma per quello che riguarda gli Stati Uniti chiaramente salirà al 2% nel medio termine. Sentiamo uno dei passaggi del Janet Yellen, e poi vale anche la pena ricordare che Stanley Fischer, che è il vicepresidente, ha detto che la Banca Centrale Americana è in grado di aiutare le banche in caso di crisi, e quindi mantiene la capacità di offrire liquidità ai mercati durante i periodi di stress finanziario. Sentiamo la Yellen. Since my appearance before this committee last July, dalla mia ultima audizione qui a luglio, l'economia ha registrato ulteriori progressi verso l'obiettivo della Federal Reserve di una piena occupazione. L'inflazione è attesa ancora su livelli bassi nel breve termine, mentre ci aspettiamo che cresca fino all'obiettivo del 2% nel medio termine. Gli sviluppi economici sui mercati stranieri potrebbero porre rischi per la nostra crescita economica. Inoltre, gli sviluppi sui mercati finanziari, se perdurassero, potrebbero pesare sullo scenario economico e sul mercato del lavoro. Ci aspettiamo che con aggiustamenti graduali della politica monetaria ci sarà un'espansione moderata dell'attività economica ed un rafforzamento del mercato del lavoro. Lo scenario economico rimane incerto e gli sviluppi in economie straniere creano rischi alla crescita economica statunitense. Detto questo, sebbene i recenti indicatori non suggeriscano un drastico rallentamento della crescita cinese, il calo del tasso di cambio dello yuan ha incrementato l'incertezza sulla politica valutaria cinese e le prospettive per l'economia. Questa incertezza contribuisce alla volatilità dei mercati finanziari e ai timori sulla crescita globale. Questi sviluppi, insieme al calo dei prezzi delle materie prime, possono tradursi in stress finanziari per le economie emergenti, con un possibile contagio negli Stati Uniti. Riguardo la politica monetaria, ci vuole tempo prima che le nostre decisioni si sentano sull'economia. La politica monetaria non è su una via prestabilita e le condizioni economiche consentono aumenti solo graduali dei tassi di interesse. Quindi dice attenzione, le prospettive sono peggiorate, adesso vedremo. Chiaramente non potete chiedere alla Yellen di fare autocritica, ripeto, molti ritengono che a questo punto se poi devi fare marcia indietro frenare, forse era meglio non alzare nemmeno i tassi di interesse a dicembre, ma la storia non si fa con i se e con i ma, ormai l'hanno fatto, adesso vediamo. Ecco, abbiamo raggiunto, io pensavo che ti avessero già embedded con il Presidente della Repubblica Mattarella, che è appunto in visita ufficiale a Washington, ma non è embedded Platero, e quindi lo risolleviamo, diciamo, lo mettiamo in diretta. Mario Platero, buonasera. Mario. Eccoci Sebastiano, buonasera. Allora, dicevo, abbiamo ascoltato un passaggio, quello principale dell'intervento di Janet Yellen sulla decisione probabilmente di aspettare e rallentare l'aumento dei tassi di interesse perché sono peggiorate le prospettive economiche. Molti l'hanno anche criticata questa scelta di rialzare i tassi a dicembre, e a nessuno sfugge che poi la Yellen ha parlato nel giorno in cui, per quello che riguarda le primarie americane, il New Hampshire abbia bocciato in maniera scioccante, dice oggi il Financial Times, Hillary Clinton. Mario. Ecco, Sebastiano, la situazione direi è abbastanza chiara, nel senso che in condizioni come quelle che abbiamo di mercato, con forti preoccupazioni in arrivo dall'Europa, è inimmaginabile che la Federal Reserve proceda con degli aumenti di tassi di interesse. Devo dire che fin dall'inizio, cioè dopo aver avviato l'idea di una stretta, la Yellen è stata chiarissima, cioè la stretta monetaria sarà assolutamente graduale. Gran parte degli economisti si aspettavano al massimo 4 aumenti nel corso dell'anno, qualcuno 2. Adesso prevale l'idea che saranno 2. Vuol dire che cosa questo? Che probabilmente a gennaio del 2017 arriveremo con tassi che invece di avere un territorio positivo tra lo 0,25 e lo 0,50 lo avranno fra lo 0,50 e lo 0,75 oppure l'1%. Parliamo comunque di tassi straordinariamente bassi. Però il mercato è molto nervoso e ti dirò che proprio grazie a queste anticipazioni che già giravano sulla Yellen, preoccupata anche tra l'altro dalla Cina, poi abbiamo visto per esempio il rafforzamento dell'euro, l'indebolimento del dollaro, perché i mercati valutari erano scontato che potessero esserci degli aumenti più rapidi. Sì. E quindi insomma ci sono delle dinamiche in movimento, ma c'è secondo me la forte preoccupazione per una situazione di mercato finanziario internazionale molto fragile, dovuta molto anche a componenti psicologiche. A questo punto la Yellen deve tenere il timone e va avanti per la sua strada. Devo dire che, come tu in qualche modo lo ci devi capire, un po' di credibilità l'ha persa. Perché su dicembre, insomma, diciamo che per usare un inglesismo, lo stop and go, o meglio go and stop in questo caso, prima alzare i tassi, poi dire adesso ci fermiamo, non è un segnale di grande sicurezza sulla barra e sul timone. Un'ultima domanda, Mario, però dal punto di vista più della Casa Bianca, ma anche della Federal Reserve, è vero che c'è un po' di così fastidio, irritazione per questa Europa che continua a rappresentare un problema? Mi spiego, la Cina rallenta, e vabbè, lo sappiamo tutti, Brasile in recessione, gli Stati Uniti per poter operare il loro rientro da questa grande politica accomodante di stampaggio di dollari, tassi bassi, hanno bisogno che qualche altra area geografica si riprenda nel mondo, perché se no andiamo su quello che abbiamo appena ascoltato la Yellen. È vero che c'è un po' di, lo voglio chiamare fastidio, per un'Europa area euro, guarda, no, che non riesce a uscire da questa secca dell'austerità e ad avere una condizione per far ripartire l'economia in maniera, insomma, significativa, robusta. Sì, guarda, ero l'altro giorno alla Casa Bianca per la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e ero fra i... Io pensavo che fosse Mattarella, pensavo che fosse Mattarella a essere alla Casa Bianca per il tuo incontro con Obama, però scopro che le cose diciamo che ci siamo messi d'accordo, poi come sempre i compromessi si trovano. Bene. Comunque ti dicevo che l'economia, e soprattutto il Presidente della Repubblica, devo dire, è stato molto chiaro su questo. Ne hanno parlato, il tema è centrale e per quel che ho sentito da fonti americane, l'America dice basta, insomma continuiamo in Europa a far prevalere delle regole soprattutto, le regole che sono rigidissime in arrivo da Bruxelles quando la casa rischia di bruciare, insomma ci deve essere più flessibilità, ci deve essere più apertura e soprattutto bisogna che l'Europa si prenda le sue responsabilità. Perché, come dicevi tu, doveva esserci una staffetta, sembrava anche che questa staffetta potesse esserci, ma finora il portatore d'acqua è stato soltanto Mario Draghi. Non basta la politica monetaria da sola, questo lo insegna l'America, che all'inizio della crisi, come ricordi, fece una politica fiscale espansiva al massimo, arrivando addirittura al 10% del disavanzo sul PIL. Noi continuiamo a insistere su questo 3%, e guai a chi sgarra, e con conseguenze che poi le vediamo nel giorno per giorno. Insomma, qualcosa di radicale deve capitare e in questo io credo, so che ci sono state molte polemiche su questo, ma io credo che il Presidente del Consiglio ha ragione a insistere sul fatto che Bruxelles si dia una mossa e soprattutto non applichi due tesi di misure, perché per esempio nella crisi della banca, delle banche, questo lo osservavano qui, noi abbiamo fatto una richiesta che è stata bocciata, mentre invece la stessa richiesta di aiuti, cioè dell'utilizzo dei fondi per le garanzie dei depositi, è stata approvata per Germania e Portogallo. Ecco, c'è qualcosa che non va e l'America... Sì, lo dico non per difendere i tedeschi, che dubito che uno possa accusarmi di questo, però non cambiate le regole. Dimmi una battuta perché ho il traffico, Mario, ma secondo te sono troppo malizioso se penso, perché Sapelli sostiene che tutto quello che sta capitando sulle borse è dovuto più alla geopolitica del Mediterraneo e quindi a rapporti di forza della classica, insomma, geopolitica, che ha motivi strettamente economici, uno scontro in atto sul controllo del Mediterraneo, Libia, ma non solo, anche Siria e quant'altro. Ma sono troppo malizioso se ipotizzo che magari qualche pressione gli Stati Uniti possano farla come prolungamento della politica estera con altri mezzi, magari in borsa, vendendo, facendo o fondi... No. È molto facile fare, come dire, delle speculations, come si direbbe qui, creare un po' di idee, un po' di cose, però certe cospirazioni, diciamo, non funzionano, anche perché sarebbe davvero troppo complicato, certo, poi pensarle, organizzarle, mettere a punto, dopodiché vengono fuori e succedono ripasticci ancora peggiori. No, io credo che sia soltanto una dinamica del mercato sul fronte del Medio Oriente. Di quello che sta capitando c'è un braccio di ferro politico, questo sì, ma è un braccio di ferro che parte dall'Arabia Saudita, che ha deciso di operare su due fronti, di sostenere un prezzo del petrolio molto basso per danneggiare l'Iran da una parte, che sta ripresentando sul mercato il suo greggio, ma anche per contrastare gli Stati Uniti e la loro produzione, che certo, hanno invaso il mercato con lo shale gas e con lo shale oil. E dunque sì, da parte dell'Arabia Saudita sì, da parte americana in questo caso non credo che siano delle azioni di questo. Allora, io ti lascio perché so che il Presidente Mattarella sta aspettando di incontrarti, perché ormai i rapporti sono invertiti, se ho ben capito. Sto scherzando, Mario Patera a Washington, perché c'è comunque la visita del Presidente della Repubblica Italiano a Washington, ieri l'incontro con Barack Obama. Grazie a Mario Patera. Traffico. Focus Economia. A grande richiesta torna una base del 2013, mi dicono addirittura, perché mi chiedevate My Head is a Jungle per dare una definizione della borsa di oggi. Ma certo, dai, più 5% con un indice ancora a 16.700 punti, Cosa è cambiato? Nulla, lo ripeterò fino allo sfinimento, però meglio per chi ha guadagnato, meglio per i risparmiatori. Vediamo cosa succede domani. Secondo me l'orientamento resta molto negativo, ma spero vivamente di sbagliarmi. Intesa San Paolo più 14,40 e vai con la speculazione intraday. Unicredit più 11,90, Banco Popolare più 11, Unipol più 10,26, Pop Milano più 9,5, Poste Italiane più 9,40, Mediolanum più 9,1, Anima Holding più 8% come CNH, il 7,70 lo guadagna UbiBanca, il 7,5 Mediobanca ed Exor, il 7,20 Boots Unicem, il 6,90 la Pop Emilia Romagna e anche il Monte dei Paschi. E poi chiudo con chi guadagna più del 3%, Azimut più 5,80, Fiat pure, il 5,70 lo guadagna Unipolsai, il 5,60 Prismian, il 5,30 Generali, il 4,40 Yux Net-a-Porter, il 4,20 Telecom, il 4,1 Finmeccanica, il 3,90 Mediaset e Atlantia 3,80%, Luxottica più 3,60, Campari più 2,30, Saipem perde ancora l'1,34%. E parleremo di Saipem, oltre che del resto della borsa, con Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. E Paolo, dammi ancora qualche minuto perché ho il GR di Radio 24. L'euro, mi chiedete, è a quota 1,12, quindi comunque in rafforzamento. Non ho detto gli altri indici, Parigi più 1,60, Francoforte più 1,5, l'America più 0,20 in questo momento, Londra più 0,70, quindi tutto il rialzo oggi addirittura 3 punti percentuali, di più di 3 punti di differenza, 3,5 sulle principali borse, è tutto su Milano ed è tutto sui bancari. Dopo il GR24. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare questa borsa, appunto una giungla nella testa degli ascoltatori e anche del sottoscritto, perché il più 5%, che ripeto non è che siamo insoddisfatti del 5%, ma voglio dire, quando arrivi da cali di questo genere del 35% sui titoli bancari, una borsa che è tornata in un mese e poco più ai livelli del 2013, banche come Deutsche Bank che oggi ha recuperato bene ma sono ancora sotto di un 40% rispetto a un anno fa, insomma non è che puoi festeggiare così. Detto ciò, Paolo Paronetto, indicavamo insomma complessivamente tutti i rialzi, li ho citati e va bene, rialzi fortissimi. C'è chi ha guadagnato tantissimo oggi vendendo magari allo scoperto ieri nei giorni scorsi e oggi comprando. C'è qualche altro motivo oltre alla Yellen e a Deutsche Bank di cui parleremo fra poco sulla borsa? Ma diciamo che, come dicevi tu, si tratta di un rimbalzo innescato soprattutto dalla speculazione dopo i recenti cali. Sulle banche si segnala anche l'approvazione formale da parte della Commissione europea della cosiddetta bad bank annunciata dal governo, via libera che del resto era scontato, oltre che l'avvicinarsi, sembrava ormai sempre più imminente, del consolidamento. Sembra che BPM e Banca Popolare siano ormai davvero a un passo da un accordo che porterà alla fusione tra gli istituti. Tutto questo ovviamente ha contribuito a innescare la speculazione, a portare a quei rialzi a due cifre che già hai citato prima. Allora, Sì, poi c'è qualcuno che cita von Mises, che diceva che, contrariamente al credo popolare, le fluttuazioni di prezzo sono mitigate, non accentuate dalla speculazione. Vabbè, non vorrei fare adesso economia 1 o economia 2, vorrei concentrarmi su Saipem, perché in effetti con questi crolli di borsa e poi rimbalzi e poi crolli abbiamo un po' tralasciato la vicenda Saipem, che è una vicenda nella vicenda. Cioè, è chiaro che il titolo, che quota 36 centesimi quando ne valeva 7-8, la Cassa Depositi e Prestiti ce l'ha a 8,5, l'ha comprata, o meglio l'Eni l'ha ceduta la Cassa Depositi e Prestiti a 8,5 euro, ma ne vale 36 di centesimi. Che cosa è successo? C'è stato l'aumento di capitale particolarmente dilutivo, Paolo, lo ricordiamo, certo. Vuol dire che quando tu aumenti il capitale, ma diluisci il valore della singola azione per gli azionisti, 1,20, come adesso vado a memoria, 1,22 per ogni azione, 22 nuove. E poi c'è stato l'andamento delle borse complessivamente dato e dei titoli legati al petrolio. Ora, giusto, a mio avviso però, giustamente qualcuno fa notare, ma chi è quel genio che ha fatto un aumento di capitali in questo periodo? Perché è chiaro che vai a aggiungere danni ad anni. Comunque, ricordiamo l'aumento di capitale e che cosa è successo, Paolo? Sì, no, come tu ripetevo è assolutamente corretto. L'aumento di capitale naturalmente è stato deciso nell'ambito del riassetto azionario della società, che ha portato all'indipendenza finanziaria dall'ENI, e quindi un nuovo riassetto voluto proprio dall'ENI per la nuova strategia, il nuovo rilancio della società. Certo, il momento è stato probabilmente il peggiore possibile. Il titolo, come ricordavi tu in apertura, dall'inizio dell'anno ha perso il 95% del suo valore. I diritti sull'aumento di capitale, che ormai sono gran parte della capitalizzazione di Saipem, nelle due settimane di negoziazione in borsa hanno perso il 93,7% del valore, e domani è l'ultimo giorno per l'esercizio dei diritti e quindi per la sottoscrizione delle nuove azioni. E quindi qui possiamo notare che oggi la chiusura di oggi dell'azione è a 0,362 euro, che è esattamente il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni. Infatti sul mercato si è diffusa la voce che anche le banche del consorzio di garanzia stiano operando per non far scendere il prezzo sotto questo valore, e naturalmente se questo avvenisse sarebbe più conveniente per gli azionisti che non volessero diluirsi, comprare azioni sul mercato invece che esercitare i diritti, e questo ovviamente avrebbe una conseguenza, cioè su un grande inoptato che dovrebbe essere preso in carico proprio dalle banche collocatrici. Quindi anche questo è un po' il timore che si sta diffondendo sul mercato, nonostante le rassicurazioni. Sì, io dico però, però io dico una cosa: da sempre Saipem era un titolo da cassettisti, nel senso che una bellissima impresa italiana che realizza impianti petroliferi, ce ne sono due al mondo, ed era un titolo legato, per carità, è vero che è legato al petrolio, ma anche come l'ENI. Però erano quei titoli in cui uno andava a investire sulle eccellenze italiane, non rischiava l'esposizione su titoli più sottili oppure sulla finanza e quindi sulle banche. Ora, andare a creare sto danno, io lo dico molto tranquillamente, quando era un titolo in pancia a molti risparmiatori prudenti, insomma, ho capito tutto, si poteva anche usare un altro tempismo, siamo a 36 centesimi di euro, Paolo? No, certo, ricordiamo che i primi problemi Saipem li ha avuti con qualche profit warning ormai. È vero, però io dico, un anno fa era 12 certo, euro. No, ma poi quando l'ha ceduta la casa dei prestiti ha preso una sola, diciamocela tutta. In questi termini, perché ce l'ha in carico a 8 euro e passa, la maggior parte dei risparmiatori che scrivono ce l'hanno a 7-6 euro. 8 euro, 9 euro, insomma 35 centesimi di euro per un titolo che, ripeto, non era un titolo, non è mai stato un titolo speculativo, questo sto dicendo, per cui no, sicuramente un capolavoro, un vero capolavoro. Grazie intanto a Paolo Paronetto, diamo anche però i migliori e peggiori della giornata oggi, dove chiaramente spiccano i bancari, però oltre il primo è ovviamente Intesa San Paolo più 14,40, però c'è anche Gruppo Waste Italia più 30%, da Zucchi più 25%, Mondo TV più 16%, fronte opposto Ross meno 14%, Ambro Mobiliare meno 11%, Poligrafici Editoriale meno 7%, Primi sui motori meno 5,40%, Iniziative Bresciane meno 6,25%. Dicevo, oggi tra le altre notizie, che se vogliamo guardare proprio la cronaca, hanno orientato positivamente il mercato, ci sono anche le rassicurazioni trapelate tramite agenzia da parte dei vertici di Deutsche Bank, che sarebbe andata a comprare, che i vertici di Deutsche Bank avrebbero comprato o starebbero pensando di comprare alcune delle obbligazioni in circolazione, non le più rischiose, ma le obbligazioni più di maggiore qualità, non quelle che sono finite nell'occhio del ciclone, ma le obbligazioni di maggiore qualità, e mi riferisco quindi non ai Coco Bond ma alle obbligazioni senior, quindi quelle meno rischiose. Focus Economia. Allora, mentre è appena arrivata la notizia, visto in extremis, visto che chiudeva le 18 il termine ultimo per le manifestazioni di interesse sull'IVA, che anche il gruppo Arvedi ha presentato una manifestazione di interesse per ILVA presso il notaio Marchetti di Milano, quindi sono almeno Cassa Depositi e Prestiti come socio di minoranza, gruppo Marcegaglia e gruppo Arvedi ad avere presentato una manifestazione di interesse. Spostiamoci in Germania, perché oggi il titolo Deutsche Bank è volato, come sono volati i titoli delle banche italiane. Ripeto, ci sono state delle notizie di rassicurazioni prodotte dai vertici di Deutsche Bank, che vorrebbero utilizzare parte della propria liquidità per riacquistare il debito che è sul mercato. Ieri le rassicurazioni dei vertici non avevano prodotto alcun effetto, tant'è che il CDS, il premio che si paga come rischio Deutsche Bank, erano schizzate 250 punti. Nell'ultimo anno le azioni hanno perso circa più del 40% del loro valore. Oggi, insomma, l'associazione che unisce l'industria tedesca, le camere di commercio tedesche hanno detto: ci preoccupa quello che sta succedendo sulle banche e ci preoccupa il caso Deutsche Bank. L'economia tedesca dipende dai crediti delle banche alle imprese e anche quella italiana. Alessandro Merli, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Ecco Alessandro, i giornali tedeschi soprattutto, dove puntano l'indice sulle preoccupazioni su Deutsche Bank? Perché l'utile, o meglio, le perdite di oltre 6 miliardi e 700 milioni sono storia vecchia ormai. Ma diciamo che c'è incertezza sul futuro di Deutsche Bank, non tanto sulla sua sopravvivenza, come addirittura nel panico dei giorni scorsi qualcuno aveva ventilato, ma sul futuro, nel senso del successo di questo piano di ristrutturazione che ha avviato il nuovo amministratore delegato John Crean, arrivato 7 mesi fa. È un piano che prevede un forte ridimensionamento, una divisione in due della divisione di banca di investimento. Ricordiamo che è quella che in passato ha fatto i maggiori utili per Deutsche Bank, ma ha anche provocato i maggiori grattacapi, in quanto è la divisione che è stata coinvolta in tutti gli scandali possibili e immaginabili in tutte le parti del mondo e che ha procurato a Deutsche Bank le più alte multe pagate da qualsiasi banca globale, sia negli Stati Uniti che in Europa che in Giappone. E quindi la prima cosa, ha deciso di mettere mano a questo, ha deciso di vendere Postbank, che è la banca delle poste che era stata acquistata alcuni anni fa, e tagliare brutalmente i costi. C'è ancora molta incertezza sul possibile successo di questa ristrutturazione. E in questi giorni però, diciamo, la causa occasionale delle grosse perdite sia delle azioni che di questi titoli ibridi, cosiddetti Coco Bonds, è stato il fatto che si è diffusa la voce che potesse addirittura Deutsche Bank non pagare le cedole su alcuni di questi titoli. Deutsche Bank prima ha spiegato che ha le risorse per pagare le cedole sicuramente per il 2016 e anche nel 2017, anche se ovviamente nel 2017 tutto dipenderà da come andranno le cose nel 2016. Poi c'è stata una lettera dell'amministratore delegato ai dipendenti, poi c'è stato un intervento del ministro delle finanze Schäuble, abbastanza insolito, il quale ha detto che Deutsche Bank non lo preoccupa, ma quello che ha fatto un po' girare il mercato è stata questa indiscrezione uscita ieri sera che abbiamo riportato sul Sole 24 Ore di oggi, secondo cui ci sarebbe un buyback di una parte delle obbligazioni più senior, come hai detto. E questo, insomma, forse il mercato si era sovraesposto con queste vendite, certo. Soprattutto di questi bond. C'era stata anche probabilmente una manovra speculativa, tant'è vero che molta gente ha dovuto andarsi a ricoprire, poi quando il titolo ha cominciato a risalire a un certo punto il titolo Deutsche Bank oggi stava facendo più 17%, quindi una cifra inverosimile, ha chiuso più 11%. Mm-hmm. Per la prima volta anche il costo di assicurare contro il default di questi bond è sceso per la prima volta da 9 giorni a questa parte, quindi diciamo questa indiscrezione che Deutsche Bank ha confermato e non confermato dicendo una cosa che ancora non è stata decisa, che abbiamo lo studio, insomma è riuscita un po' a girare così il momento dei mercati. Restano le incertezze, certo, diciamo sul più lungo periodo, su dove va questa banca che viveva dei soldi della banca di investimento, che però gli ha creato tutti questi grattacapi, poi ha cercato di diversificare nel retail, diciamo nelle operazioni al dettaglio con l'acquisto di Postbank, adesso sta vendendo Postbank, quindi sono molte incertezze sulla strategia. E sui derivati e su come sono messi a bilancio i derivati che appunto la divisione investimento aveva comprato a man bassa. Dico una cosa però nel salutare Alessandro Melli, io sono d'accordo con chi dice simpatica o non simpatica, non possiamo permetterci in area euro una crisi, lo dico perché ieri uno degli operatori che abbiamo ascoltato durante un'altra giornata drammatica ha detto: beh, tra le sale operative gira voce che potrebbe esserci una nuova Lehman Brothers e potrebbe chiamarsi Deutsche Bank. Nessuno se la deve augurare, cioè distinguiamo bene tra la critica che uno fa a un'Europa a trazione tedesca e a una gestione tedesca dell'Europa fino ad oggi fallimentare, visti i risultati in cui siamo, e visto che non mi sembra, ne parlava prima Mario Pratero, perfino l'America è molto irritata con questa Europa che non riesce a darsi dei veri stimoli per la crescita e continua a far fare il portatore d'acqua agli Stati Uniti. Ma distinguiamo tra questo, che è un giudizio di politica economica, con la necessità che il sistema bancario dell'area euro non abbia scossoni, e quando tu parli della prima banca tedesca non puoi certo augurarti che si verifichi, non dicono Lehman Brothers, ma neanche una crisi vera e propria di una banca di quelle dimensioni. Vale per tutte le grandi banche dei paesi dell'area euro, spagnole, italiane, figuratevi se non vale per una banca, per la prima banca in Germania. Grazie intanto Alessandro Merli, ma noi restiamo sul tema delle banche perché alle 21 il Consiglio dei Ministri dovrà analizzare e varare i decreti tanto attesi sia sulla bad bank italiana, quindi dopo l'accordo con Bruxelles, che sulle BCC, che soprattutto sull'agevolazione, la corsia preferenziale, come la chiamo io, affinché le banche recuperino poi i crediti attraverso le garanzie che hanno su questi crediti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, c'è l'attuazione dell'accordo raggiunto con Bruxelles, abbiamo detto ha partorito un topolino, comunque c'è questo topolino, ossia a questo punto le banche potranno creare una società accanto, una società veicolo in cui mettere tutti questi crediti deteriorati che non riescono più a riscuotere. Come si finanzierà questa società? Sul mercato emetterà obbligazioni di varia natura, sia senior, più sicure sia e meno redditizie, sia junior. Per le emissioni senior le banche potranno chiedere, pagando, e questo era il quibus, cioè non sarà gratis, di avere una garanzia della Cassa Depositi e Prestiti. In questo modo potranno, come se fosse una polizza assicurativa, potranno avere interessi più bassi. Il prezzo a cui sarà concessa questa garanzia dovrà essere commisurato al valore di mercato dei crediti dubbi e sarà crescente nel tempo. Per i primi 3 anni sarà la media dei CDS, vabbè, per gli emittenti. Quindi poi cosa succede? Che o tu rimetti a bilancio e chiarisci qual è il valore di quelle garanzie, di quei crediti che hai, o se no riesci, diciamo, a assicurarti con la CDP solo quelli di miglior livello. Poi c'è la riforma delle BCC, e la semplificazione del recupero dei crediti. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che non fosse, che non siano decreti facili, lo abbiamo capito perché questo Consiglio dei Ministri è slittato di 2 settimane, se non ricordo male. Che cosa prevede la riforma delle BCC e l'altro aspetto sulla velocizzazione del recupero dei crediti? Sì, beh, dunque, la riforma delle BCC è uno dei, come dire, pilastri della politica di questo governo sulle banche. C'erano le fondazioni, c'erano le popolari, c'era il recupero dei crediti e poi ci sono appunto le BCC. È una mezza autoriforma, perché di fatto Federcasse, che è la federazione delle quasi 400 BCC, ha lavorato a lungo sulla partita. Essenzialmente prevede la costituzione, diciamo, di un gruppo unico in cui conviveranno tutte le singole banche, che peraltro si stanno in parte aggregando, proprio fondendo, però faranno parte di un gruppo unico che opererà essenzialmente in caso di bisogno. Cosa vuol dire? Vuol dire che il patrimonio di fatto verrà socializzato, quindi se qualcuno ne avrà bisogno potrà attingere, quindi evitare risoluzioni e quant'altro. Questa è la logica. Si è parlato di modello Crédit Agricole, che sono sto a spiegare molto complesso, che comunque prevedeva di fatto un controllo da sopra delle BCC, che poi a loro volta erano controllate, e un'ampia apertura al mercato. Di fatto questo non avverrà, quindi ci sarà un sistema più chiuso, però insomma la buona notizia è che le 400 diventeranno una sola, o perlomeno saranno una sola in caso di bisogno. Ecco, lo dico per dovere di cronaca, che sono molto contrari tutti gli esponenti della Lega Nord, siamo pronti a ricorrere in ogni sede, ha detto oggi il segretario Matteo Salvini, a ricorrere alle barricate contro la svendita delle BCC, e quindi entro 18 mesi una holding della quale le BCC deterranno comunque la maggioranza, e poi l'aumento del minimo dei soci, comunque si attuerà in 5 anni da 200 a 500, così come delle risorse investite in azioni, un minimo di 100.000 euro contro i 50.000 euro. Via libera dalla Banca d'Italia e via libera, devo dire, oggi anche dall'ACRI, quindi dall'associazione che riunisce le fondazioni di origine bancaria e le casse di risparmio. E invece il recupero dei crediti, perché anche sì, qui spesso hanno immobili le banche come garanzia, però se ci metti 7, 8, 5 anni diventa difficile poter dire al mercato: non ti preoccupare, perché tanto io per un prestito di 70% avevo un immobile a garanzia che valeva 100. Prego. Esatto, sì, esattamente il ragionamento che tra l'altro faceva l'amministratore delegato di Unicredit Bizzoni nell'intervista che abbiamo pubblicato oggi. Essenzialmente sì. Il tema è come, adesso anche per ridimensionare un po' la parata del problema, si va dicendo i crediti deteriorati delle banche in buona parte hanno un collaterale, diciamo, buono, perlomeno solido, sì, che sono spesso case, capannoni, eccetera. Il problema è che le procedure previste dal diritto fallimentare per recuperare, cioè perché la banca possa entrare in possesso dell'immobile a garanzia, sono molto lunghe. Per cui le norme vanno ad agire su questo aspetto, essenzialmente sui tempi, anche se bisogna dire nelle ultime ore si è aperto un piccolo giallo, nel senso che sembra che nel ping pong MEF, Palazzo Chigi e Ministero della Giustizia, perché trattandosi di diritto fallimentare è coinvolto anche appunto il Ministero della Giustizia, possa saltare dal CDM di oggi il tema recupero crediti. Questo lo scopriremo solo vivendo, in particolare questa sera, però appunto è una voce che si rincorre da qualche ora, proprio per cercare di mettere nero su bianco norme che abbiano una efficacia immediata, potrebbe essere necessaria ancora qualche settimana. Allora, grazie intanto a Marco Ferrando, vedremo poi cosa uscirà e se vi sarà anche questo nel Consiglio dei Ministri. Grazie Marco Ferrando. Da Sebastiano Barisoni, auguro di buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.